Zolt. Fulminati in azienda. Uè, centrifuga, mi hai letto l'ultimo numero del cliente felice? E chi ce l'ha il tempo e legge ste fregnacce? Male, ecco. Male, sbagli, perché bisogna aprirsi, confrontarsi, sì, tenersi vabbè. Aggiornati. Tu mi resti sempre a un livello di competenze basso. Comunque la domanda è: tu lo sai che cosa dobbiamo fare per orientarci al cliente? Certo cosa. O dovevamo ascoltare, o dovevamo capire, eh? E perciò se siamo pure fatti al numero verde e abbiamo montato un call center H24 che faccia ammorbà con tutte le sue esigenze. Sì, ma non basta, dobbiamo fare di più. Per esempio, su quel numero del cliente felice c'è un articolo del guru Jacko Sells che dice che il management deve mettersi a dare l'esempio. Almeno per un giorno all'anno deve fare lo stesso lavoro di chi è a contatto col cliente. Sì, vabbè, vuol dire che mo mandiamo i manager a rispondere al centralino. Bravo, bravo! Ma a che serve sta cosa? Cioè, già ci avevamo un sacco di rogne coi collaboratori e mo ci dovevamo prendere pure le rogne del cliente. Ma non capisci, centrifuga! Ma tu immagina, se sul pezzo il sottoscritto va al call center e si mette le cuffie, con la sua performance altamente efficace ed efficiente, dà l'esempio alle maestranze, hai capito? Beh, se ce vai tu, a me va bene. Sì, ma mica solo io, voglio tutta la prima linea e i miei colleghi al call center. Tu, la porta, font, schedula e gli altri manager tutti giù al call center, cuffie in testa per un giorno intero. Anzi, sai cosa ti dico? Propagandiamo in tutta l'azienda l'iniziativa. Lo chiamiamo il Cuffia Day. Allora, cara la mia Lori splendente, tu che sei la responsabile del Customer Care, oggi è il nostro Cuffia Day. Dici che cosa dobbiamo fare? Innanzitutto bisogna fare warm up, un po' di riscaldamento motivazionale. Pronti? Pronti. Dai, forza pronti. Ragazzi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ripetete con me. Siamo bravi, siamo forti, ai clienti niente torti. Dai! Siamo bravi, siamo forti, ai clienti niente torti. Bravi, bravi. Vabbè. Vi sentite già più motivati? Da matti, grande Lori. Ora cuffie in testa e cominciate a rispondere. Ecco, vai, pronti. Ecco una telefonata. Centri. Chi risponde? Il capo. Centri. Risponde il capo. Ho detto che rispondi tu. Diga. Con chi parlo? Sono centrifuga, che c'è? Diga, che c'ho 20 secondi. Sono 3 ore che provo, è possibile che non rispondete mai? Ah, mo ho risposto, se invece lamentasse mi dice che vuole, almeno non perdo tempo io e manco lei, da. Ma che modi? Pronto, buongiorno, sono Marco sul pezzo, in cosa posso esserle utile? Pronto, senta, voi mi avete fregato, questo X900 non funziona. Ah, uè, intanto calmina, eh. La domanda è, ma lei è sicura di averlo usato bene? Perché certi clienti pensano di avere in mano una clava, distruggono tutto e poi vogliono il rimborso. Ma guardi che l'ho comprato che era già rotto. E allora, se lei è una cliente, mi scusi il termine, un po' sfigata, non se la prenda con noi, capito? Pronto, buongiorno, posso esserle utile? Senta, ho aderito alla vostra offerta pronto prima, sì? Non mi è arrivato ancora nulla dopo 6 mesi. Ma come mi dispiace, ma lei ha compilato il vecchio coupon grigio o quello fucsia con le scritte dorate? Non ricordo, ho seguito le vostre istruzioni e ho spedito tutto via raccomandata. Ma no, dovevo seguire le istruzioni fucsia, andare sul web, la raccomandata è desueta, adesso chissà quando le arriva. Lori, allora, siamo qua per valutare con te, che sei il capo del Customer Care, gli effetti prodotti dal Cuffia Day. Facciamo prima un po' di warm-up motivazionale? 1, 2, 3, 4... No, ascolta, Lori, lasciamo perdere sto 1, 2, lascia perdere, senza cuffia non mi serve sta cosa. Va bene, va bene. Allora, non so spiegarmi perché, ma dopo il Cuffia Day gli operatori del call center hanno sbracato. Direi che hanno cominciato a trattare i clienti con scortesia. Strano. È strano che l'esempio dei manager non ha sortito effetto. Non solo, ma proprio dal giorno del Cuffia Day in poi c'è una caduta vertiginosa degli indici di customer satisfaction. Ma è incredibile sta cosa, non ci si crede. Ma come mai secondo te? Ma potrebbe essere un errore di rilevazione o anche una pura coincidenza, non so. Allora, senti a me che anche se so il tuo capo, a me mo puoi dire. Ma non è che noi manager abbiamo dato il cattivo esempio? Non è che avevamo fatto pure un po' schifo, ma diciamo. No, no, figurati, anzi, siete stati bravissimi. Ah, beh, allora, scusa, se è così dovremmo insistere. Potremmo fare Air Cuffia Week, eh? Tutta la settimana in cuffia per dare esempio. No, per no, no, no, no, no, no, no, no, no. Direi che un giorno è stato sufficiente. Vedrai che gli operatori capiranno il vostro esempio col tempo. Vabbè, peccato, mi è piaciuto tanto. Ha fatto un effetto catartico, sì. Che la cuffia in testa ci avrei un futuro. Se vuoi saperne di più, www.zoot.tv 3z 2o 1t.